ad alta voce. Andrea Pennacchi legge Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sterna. Sesta puntata. Parte seconda. La sacca. Prima di arrivare al fosso anticarro, raggiunsi la squadra di Pintossi. Camminavano curvi, silenziosi. Ogni tanto qualcuno imprecava, ma era uno sfogo per la disperazione che gravava dentro. Dove si andrà ora? Si accorgeranno i russi che abbiamo abbandonato il caposaldo? Ci inseguiranno subito? Resteremo prigionieri? Mi fermavo ad ascoltare e guardavo indietro. Era tutto nero, era tutto silenzio. Al fosso anticarro alcuni alpini della 113, armi d'accompagnamento, mettevano le mine. «Presto!» ci dissero. «Siete gli ultimi! Dobbiamo distruggere la passerella!» Quando passai la passerella e fui di là, mi pareva di essere in un altro mondo. Capivo che non sarei più ritornato in quel villaggio sul Don, che stavo per staccarmi dalla Russia e dalla terra di quel villaggio. Ora sarà ricostruito. I girasoli saranno ritornati a fiorire negli orti attorno alle isbe e il vecchio con la barba bianca come lo zio Jeroska avrà ripreso a pescare nel suo fiume. Noi, scavando i camminamenti, trovavamo tra la neve e la terra patate e verze. Ora avranno tutto livellato e vangando a primavera avranno trovato i bossoli vuoti delle armi italiane. I ragazzi giocheranno con quei bossoli e io vorrei dir loro: vedete, anch'io fui qui, dormivo là sotto di giorno e di notte andavo per i vostri orti che non c'erano più. Avete trovato l'ancora? Ad un certo punto dovevo incontrare la compagnia che mi aspettava. La trovai più avanti alle cucine. Quando il capitano sentì che arrivavo, venne verso di me imprecando e calpestando con ira la neve. Mi mise l'orologio sotto il naso dicendomi: «Guarda, cretino, abbiamo più di un'ora di ritardo, siamo gli ultimi. Non potevi sbrigarti prima?» Tentai di dire qualcosa per spiegarmi, ma mi impose di tacere. «Vai col tuo plotone», disse. Ritrovai il mio plotone mitraglieri. Eravamo contenti di ritrovarci, ma non c'eravamo tutti. Il tenente Sarpi non era più con noi. Qualche altro ferito era all'ospedale. Antonelli mi si avvicinò. «È finita questa volta», disse. «È finita». Ci incamminammo per la strada che avevamo percorso quando ai primi di dicembre eravamo venuti a dare il cambio al Val Cismon della Iulia. Un pezzo da 75-13 sparò qualche colpo. Si andava con la testa bassa, uno dietro l'altro, muti come ombre. Era freddo, molto freddo, ma sotto il peso dello zaino pieno di munizioni si sudava. Ogni tanto qualcuno cadeva sulla neve e si rialzava a fatica. Si levò il vento, dapprima quasi insensibile, poi forte, sino a diventare tormenta. Veniva libero, immenso, dalla steppa, senza limiti. Nel buio freddo trovava noi, povere piccole cose sperdute nella guerra. Ci scuoteva, ci faceva barcollare. Bisognava tenere forte la coperta che ci riparava la testa e le spalle, ma la neve entrava da sotto e pungeva il viso, il collo, i polsi come aghi di pino. Si camminava uno dietro l'altro con la testa bassa. Sotto la coperta e sotto il camice bianco si sudava, ma bastava fermarsi un attimo per tremare dal freddo. Ed era molto freddo. Lo zaino pieno di munizioni a ogni passo aumentava di peso. Pareva da un momento all'altro di dover schiantare come un abete giovane carico di neve. «Ora mi butto sulla neve e non mi alzo più, è finita. Ancora 100 passi e poi butto via le munizioni. Ma non finisce mai questa notte e questa tormenta». Ma si camminava, un passo dietro l'altro, un passo dietro l'altro, un passo dietro l'altro. Pareva di dover sprofondare con la faccia dentro la neve e soffocare con due coltelli piantati sotto le ascelle. Ma quando finisce? Alpi, Albania, Russia. Quanti chilometri, quanta neve, quanto sonno, quanta sete. È stato sempre così, sarà sempre così. Chiudevo gli occhi, ma camminavo. Un passo, ancora un passo. Il capitano in testa alla compagnia perse il collegamento con gli altri reparti. Eravamo fuori dalla strada giusta. Ogni tanto accendeva la pila sotto la coperta e consultava la bussola. Qualche alpino si staccava lentamente dalla squadra. Si sedeva sulla neve e alleggeriva lo zaino. Non potevo dire nulla tranne che «Nascondetele sotto la neve! Tenetevi le bombe a mano!» Antonelli portava l'arma della pesante. Non bestemmiava più, non perché non volesse, ma perché non poteva. Nel buio posai casualmente i piedi su cose oscure e solide, cassette portabombe per mortaio da 45. Erano della squadra di Moreschi. Lo cercai e gli dissi: con la tua squadra devi aiutare le altre del plotone a portare le pesanti e le munizioni per le pesanti. Abbandona anche i mortai, aggiunsi più piano, e le altre casse. Cerca di fare in modo che non s'accorga il capitano. In testa si fermarono. Ci fermammo tutti. Nessuno parlava. Sembravamo una colonna di ombre. Mi buttai sulla neve con la coperta sulla testa. Aprii lo zaino e seppellii nella neve due pacchi di cartucce per mitragliatore. Si riprese a camminare. Dopo un po' mi feci dare da Antonelli la pesante e passai a lui le due canne di ricambio che avevo portato fino ad allora. Antonelli aprì la bocca, sospirò forte e bestemmiò tutto quello che poteva bestemmiare. Sembrava, tanto era divenuto leggero, che il vento lo dovesse portar via. E a me di sprofondare. Sotto, dissi, dobbiamo restare uniti. Dove abbiamo camminato quella notte? Su una cometa o sull'oceano? Niente finiva più. Abbandonato sulla neve, a ridosso di una scarpata al lato della pista, stava un portaordini del comando di compagnia. Si era lasciato andare sulla neve e ci guardava passare. Non ci disse nulla, era desolato e noi come lui. Molto tempo dopo, in Italia, e c'era il sole, il lago, alberi verdi, vino, ragazze che passeggiavano, venne il padre di questo alpino a chiedere notizie di suo figlio a noi pochi che eravamo rimasti. Nessuno sapeva dire niente, o non voleva dire niente. Ci guardava duramente. Ditemi qualcosa, anche se è morto, tutto quello che potete ricordarvi, qualsiasi cosa. Parlava a scatti, gesticolando, e per essere il padre di un alpino era vestito bene. È dura la verità, dissi io allora. Ma giacché lo volete, vi dirò quello che so. Mi ascoltò senza parlare, senza chiedermi nulla. Ecco, finii. È così. Mi prese sotto il braccio e mi portò in un'osteria. Un litro e due bicchieri. Un altro litro. Guardò il ritratto di Mussolini appeso alla parete e strinse i denti e i pugni. Non parlò e non pianse. Poi mi tese la mano e ritornò al suo paese. Non finiva mai quella notte. Dovevamo arrivare in un paese delle retrovie dove c'erano magazzini e comandi, ma noi non sapevamo nessun nome di paese delle retrovie. I telefonisti, gli scritturali, gli altri imboscati sapevano tutti i nomi. Noi non sapevamo nemmeno il nome del paese dove era il nostro caposaldo. Ed è per questo che qui trovate soltanto nomi di alpini e di cose. Sapevamo solo che il fiume davanti al nostro caposaldo era il Don e che per arrivare a casa c'erano tanti e tanti chilometri e potevano essere 1.000 o 10.000 e quando era sereno dove l'est e dove l'ovest, di più niente. Dovevamo arrivare in uno di questi paesi dove, ci dicevano gli ufficiali, avremmo potuto riposare e mangiare. Ma dov'era? In un altro mondo? Finalmente lontano si vide una luce tenue. Si ingrandiva sempre di più sino a diventare rossigna ed illuminare il cielo. Ma questa luce rossa era nel cielo o sulla terra? Poi, avvicinandosi, si poté distinguere che era un villaggio che bruciava. Ma la tormenta non smetteva e c'erano sempre i coltelli piantati sotto le ascelle e si era schiacciati dal peso dello zaino e delle armi. E altre luci rosse si videro in quel buio. La neve pungeva gli occhi, ma si camminava. Arrivammo in un paese. Intravedemmo le isbe scure nella tormenta e sentimmo abbaiare i cani. Si sentiva che sotto la neve c'era una strada. Ma non potevamo fermarci. Bisognava camminare ancora. Altra gente camminava lì attorno, forse russi. Ma è meglio morire. Uno mi si avvicina, mi tira per la coperta, mi guarda fisso. «Che reparto siete?» mi chiede. 55° del Vestone, 6° Alpini», rispondo. «Conosci il sergente maggiore Rigoni Mario?» dice l'ombra. «Sì», rispondo. «È vivo?» chiede. «Sì», dico, «è vivo». «Ma chi sei?» «Sono un suo cugino», dice. «Ma dov'è?» «Sono io, Rigoni», dico. «Ma tu chi sei?» «Adriano!» E mi prende per le spalle e mi chiama per nome e mi scuote. «Come va, parente?» dice Adriano. Ma io non riesco a dirgli niente. Adriano avvicina i suoi occhi al mio viso e ripete: «Come va, parente?» «Male», dico. «Va male. Ho sonno, ho fame, non ne posso più, ho tutto quello che si può avere di peggio». Adriano me lo raccontò poi al paese. Si stupì quella notte a sentirmi parlare così. «Io», diceva al paese, «quando lo incontravo, lo vedevo sempre sereno e allegro, ma quella notte. Adriano levò dallo zaino una scatola di marmellata e un pezzo di parmigiano di un paio di chili. «L'ho presa in un magazzino questa roba», disse. «Mangia!» Con la baionetta cercai di rompere il formaggio per staccarne un pezzo e restituirgli l'altro. Ma dopo essermi levato i guanti, sentii un dolore impensabile straziarmi le mani. Non fui capace di tagliarlo. Le mani non seguivano il cervello e le guardavo come cose non mie. E mi venne da piangere per queste povere mani che non volevano più essere mie. Mi misi a sbatterle forte una contro l'altra, sulle ginocchia, sulla neve, e non sentivo la carne e non le ossa. Erano come pezzi di corteccia d'un albero, come suole di scarpe. Finché me le sentii come se tanti aghi le perforassero e me le sentii a poco tornare mie queste mani che adesso scrivono. Quante cose può ricordarmi il mio corpo? Riprendemmo a camminare nella notte. «E i paesani, Adriano?» chiesi. «Sono tutti sani», rispose. «Ma io ora devo ritornare al mio reparto. Ci rivedremo ancora. Stai in gamba, parente?» «Arrivederci», dico. «In gamba sempre». Sotto, dobbiamo restare uniti. Non ho il coraggio di parlare ai miei compagni di casa, di vino, di primavera. A che gioverebbe? A buttarsi sulla neve e dormire e sognare queste cose e poi svanire nel nulla, nel niente e sperdersi, sciogliersi con la neve a primavera nell'umore della terra. Era tutto buio e di lontananza nel cielo riflessi rossi dei villaggi che bruciavano. Ancora un passo, ancora un altro. La neve passava la coperta e pungeva il viso, il collo, i polsi. Il vento ci toglieva il respiro, voleva strapparci la coperta. Mangiai un po' del formaggio che mi aveva dato Adriano. Era duro, a spezzarsi con i denti, a masticarlo era come sabbia. E sentivo che assieme al boccone mandavo giù sangue che mi usciva dalle gengive e dalle labbra. Il fiato mi si gelava sulla barba e sui baffi. E con la neve, portata dal vento, vi formava dei ghiaccioli. Con la lingua mi tiravo coi ghiaccioli in bocca e succhiavo. E venne l'alba. E la tormenta aumentò. E il freddo aumentò. Ma ora mi domando, se non vi fosse stata la tormenta, saremmo sfuggiti ai russi? In quella notte, il tenente Cenci era di retroguardia con il suo plotone. Ad un certo punto si erano fermati in un'isba isolata per riposare. Ma se due donne non li avessero svegliati in tempo per riprendere in fretta il cammino, sarebbero stati sorpresi dai russi, che già erano in vista dell'isba. E l'alba era grigia, e il sole non veniva mai, e c'era solo la neve e il vento, e noi nella neve e nel vento. Nessuno voleva più portare le pesanti e le casse di munizioni. E quando uno si prendeva sopra lo zaino una di queste cose, non c'era più nessuno che voleva dargli il cambio. Cercavo di convincerli che bisognava tenerle con noi. Le Breda della mia squadra erano le armi migliori della compagnia e sapevo che cosa significasse per i fucilieri sentire le pesanti in caso di attacco. Bisognava portarcele con noi, a costo di qualsiasi sacrificio. Ma quando, in quella mattina dopo una tale notte, bisognava prendere sopra lo zaino il treppiede, una cassa di munizione, i coltelli sotto le ascelle, pareva raggiungessero il cuore e i polmoni rimanevano senza aria. Alleggerendo un compagno di una di queste cose, pareva che costui si alzasse in volo. Sospirava, bestemmiava e poi diceva mentalmente un Ave Maria. Si camminava su una strada e la neve era ammucchiata ai lati, ma quella vecchia, non quella portata dalla tormenta. A destra c'era una rada fila di isbe. Si camminava a gruppetti con lunghe code. Era difficile tenere unito il plotone. Tra uno spazio e l'altro passava libero il vento e sibilava la tormenta. Eravamo tutti grigi e si vedeva poco. Qui una volta vi dovevano essere magazzini o conducenti, perché tra la neve si vedevano dei fili di paglia. Pensate, paglia che una volta era un campo di grano. Vi erano anche delle casse di galletta. Come vedono le casse, gli alpini vi si gettano sopra, sono vuote. Ma pure qualcosa ci deve essere nel fondo, perché a spintoni e a pugni cercano di farsi largo e di affondarvi le mani. Quelli che sono presi sotto gridano, poi lentamente si allontanano tutti. Uno rimane, gira ancora attorno alle casse, poi le rovescia e fruga nella neve. Il capitano in testa a tutti si ferma, guarda la bussola. Ma dove siamo? A un lato della strada vedo una massa oscura, immobile, un camion o una carretta, un carro armato. È una macchina rotta e abbandonata. Un senso di apprensione mi invade e mi pare che i carri armati russi debbano uscire dalla tormenta. Andiamo, dice il capitano. State sotto, dobbiamo camminare in fretta, avanti! Finalmente arriviamo in un grosso paese dove erano comandi e magazzini. La tormenta è cessata, però tutto è grigio. La neve, le isbe, noi, i muli, il cielo, il fumo che esce dai camini, gli occhi dei muli e i nostri. Tutto di uno stesso colore. E gli occhi non vogliono più stare aperti. La gola è piena di sassi che vi ballano dentro. Siamo senza gambe, senza braccia, senza testa. Siamo solo stanchezza e sonno e gola piena di sassi. Vediamo il maggiore comandante del battaglione uscire da un'isba. Andate nelle isbe al caldo e riposatevi, ci dice. Sono già diverse ore che sono qui le altre compagnie. Dove siete andati? Chissà dove siete andati voi questa notte. Entrate nelle isbe, dice il maggiore. Forse pensa di parlare con delle ombre, perché stiamo lì come i muli che fumano dalla pelle. Andate al caldo e riposate, dice il capitano. Tra poche ore si riparte. Sistemate i plotoni nelle isbe, dice agli ufficiali e a me, e fate pulire le armi. Andrea Pennacchi ha letto Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sterna. A cura di Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.